Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Su Pjanic, direttamente su Rincon, verticalmente Higuain, 2-0 Juve, come un treno Higuain, 19esimo gol di stagione, 74esimo e partita in cassaforte. Ma il campionato è ancora lungo, ci sono tante partite, oggi era importante prendere 3 punti perché era un bonus importante che ci dovevamo giocare nel migliore dei modi. I ragazzi l'hanno fatto bene, veniamo da partite, abbiamo giocato le prime 4 di campionato con Lazio, Fiorentina, Sassuolo e Inter, in mezzo c'era Atalanta e Milan in Coppa Italia, e quindi è stato un mese importante, dal momento i ragazzi hanno fatto bene. Ora domenica abbiamo una trasferta difficile a Cagliari, perché Cagliari fuori casa è una squadra, in casa è completamente un'altra squadra, quindi bisogna essere pronti. Legge si gira, De Olofeo sposta il pallone contro Maglietta, entra nella rigore, De Olofeo mette dentro la palla, il Milan in 9 uomini trova il gol del vantaggio con Pasalic. Ma bisogno di qualcosa di epico, perché nelle ultime 3 partite veramente è capitato di tutto e la squadra non meritava mai di perdere, ma obiettivamente, non oggettivamente, quindi credo che oggi questa vittoria vale molto di 3 punti perché è arrivato in un momento particolare, è arrivato in situazioni particolari, quindi voglio credere così perché i ragazzi hanno giocato veramente con la voglia di vincere vera, intima, personale e poi messa a disposizione degli altri. Questo ciò che è successo nella serata che ha reso reale la classifica. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzari in redazione. Chiamo a raccolta, per magari anche per l'ultima volta, tutti gli interisti ancora incazzati per la partita di domenica. 800 24 00 24. Mi sento di, l'ho detto l'altro giorno, mi arrabbio molto quando sento discorsi legati da tutte le parti alla cultura della sconfitta, alla cultura sportiva in generale. Mi dà anche un po' fastidio la battutina di Elkan di oggi, anche se abituata all'Inter non sa perdere, però torneremo su questo tema, su questo argomento, rigori non dati, filmati postumi eccetera eccetera, con un punto di vista che mi ha molto incuriosito e che è proprio di un interista. Però partirei dalla cronaca salutando Pierluigi Pardo e Maurizio Crosetti. Pierluigi Pardo tra poco lo saluto, invece Maurizio Crosetti subito. Ciao Mauro. Eccomi, buongiorno. Ciao. Cari, buongiorno a tutti. Ciao. Ciao. Mentre il Milan si prende la vittoria dell'orgoglio e della disperazione in 9 contro 11 per un sacco di tempo, una vittoria di quelle che possono un minimo cambiarti la vita, no? La Juventus ha completato, come tu scrivi oggi su Repubblica, ha completato la realtà della classifica, che adesso non è più virtuale e suona già quasi come una sentenza. Ecco che è arrivato anche Pardo, che ha raccontato la gara di cui abbiamo sentito la telecronaca del gol di Higuain. Ciao Pierluigi. Ciao. Qualche altra galleria, ma dovremmo essere. Eccoci. Dunque Maurizio, dicevamo, classifica ora reale, il Milan che si prende, partire dal Milan che si prende la vittoria dell'orgoglio in 9 contro 11 a Bologna per un sacco di tempo, alla fine segna nel desperation time e sono 3 punti che possono in qualche modo svoltare. Sì, poi devo dire che rimane sempre negli occhi l'ultima cosa, la più luminosa, la più abbagliante, no? È questo slalom con assist tunnel di De Olofeu, e insomma, quando arriva un giocatore giovane, nuovo, atteso, in una squadra giovane, in attesa ma reale, nonostante qualche problema di crescita e qualche malanno di stagione nelle ultime domeniche, quando tutto questo si rapprende, si coagula attorno a una realtà come quella del Milan, e quando c'è finalmente un nome nuovo, abbiamo tanto bisogno tutti sempre di novità, siamo a cercarle, il fascino del mercato è sì, quello. Posso contestarti, siamo amici di lunga data ormai, posso contestarti, siamo qui per questo, la definizione di campione per De Olofeu che è appena arrivato? Sì, probabilmente ho anche io un po' esagerato, però insomma credo che lui potenzialmente anche per il suo percorso è giovanissimo, però questo sembrava, ne parlavano, non dico come il nuovo Messi, perché ogni volta che sono nuovo Messi è povero lui, è come quando si parlava del nuovo Coppi, del nuovo Merckx, del nuovo Maradona, però indubbiamente questo è un ragazzo che è segnato da una certa diversità di classe, di tocco, di spunto, sì. si vede. Sì. Quindi sì, ho esagerato anch'io, però mi piace, perché se no non farei il giornalista e non mi occuperei di sport. Bravo. Se non esagerassi, no? Bravo, perché si bravo. Esagera. Esageriamo sempre per tutti. Qualcosa in più, il bicchiere deve essere sempre mezzo pieno. Esageriamo se no ci occupiamo di finanza, non posso dirlo a Radio 24, ma insomma sì. Ci occupiamo di quotazioni in borsa, di listini e qualche volta esagerano, ecco. Pure loro signori. Ha voglia. Pardo, come hai visto la Juventus a Crotone? Bene, partita noiosa nel guardamento, nel senso che la Juve ha ottenuto il massimo senza nemmeno sprecare troppe energie, facendo turnover, ha portato a casa 3 punti importanti, la differenza tra le due squadre è stata enorme. Il Crotone è stato dignitoso, 0-48. L'ho perso di nuovo, Pardo, sarà in un'altra galleria di ritorno da Crotone, ma adesso lo recuperiamo, intanto andiamo con il traffico che può essere d'aiuto. Intanto, mentre questo succede in campionato, la classifica diventa reale, tutto intorno infuria la battaglia. E come tu scrivi, come scrive soprattutto un interista che esce dal coro e che sentiremo tra poco. Tutti convocati. Sai, Maurizio Corsetti, l'altro giorno ho detto in piena bufera post Juventus-Inter, perché ogni volta che giocano Juventus e Inter bisogna girare con una metaforica scorta anche per chi parla per radio, no? Anche nell'etere. Il primo che sento di nuovo parlare di cultura sportiva, di cultura della sconfitta, appendo il microfono, mi incazzo, esco di qui e faccio come Cruciani. Hai ragione, è la seconda è la terza frase che mi fa venire l'orticaria. La prima è: la bellezza salverà il mondo. Non c'entra niente, ma mi fa vomitare, non ne posso più. La seconda è: facciamo narrazione con lo storytelling, che di modo mi fa venire la dissenteria. E la terza è: in Italia non c'è cultura sportiva. Basta, divento Cruciani anch'io. Diventiamo tutti un po' il signor Cruciani. Ne ha parlato di cultura sportiva Beppe Marotta. Ma sono imbarazzato nel rispondere, perché onestamente non immaginavo che dopo una bella partita così, giocata bene da entrambe le squadre, si potesse ancora dilungare nell'analizzare praticamente episodi che non sono esistiti. Dico che come uomo di calcio, ancor più che come dirigente della Juventus, dovremmo allenare tutte le componenti, quindi dirigenti, allenatori, calciatori, a una maggiore cultura della sconfitta, che in Italia non esiste, a discapito di una cultura dell'alibi che invece esiste fortemente. Probabilmente però Marotta si era dimenticato di quello, o forse no, di quello che aveva detto un anno fa dopo la sconfitta con il Bayern Monaco. Chiaramente sono episodi, soprattutto in campo internazionale ho visto espulsioni, cartellini rossi per situazioni molto più lievi di queste, però ripeto, io non sono qua per trovare alibi, sono qua per da una parte, ripeto, sottolineare la grandissima prova da parte nostra e dall'altra dire pubblicamente che il nostro calcio deve essere maggiormente tutelato, perché non si può uscire da una competizione importante. Il danno non è solo della Juventus, il danno del calcio italiano in termini di ranking, in termini non dico solo economici ma di prestigio, di immagine, e certi arbitraggi sicuramente fanno molto male. E dunque decidiamoci sul fronte italiano come sul fronte europeo, perché della stessa cosa più o meno stiamo parlando. Però Maurizio Crosetti, oggi mi ha molto colpito il pezzo in apertura del Foglio di un interista, posso dire interista marcio, convinto, no? Claudio Cerasa, direttore, posso dirlo? Sì, direi molto molto convinto, anche se... come tutti gli interisti sono un tifoso che soffre sempre. E questo, in questo non c'è nulla di male, perché fa parte dell'iconografia classica. Dal titolo: il dramma del tifoso dell'Inter, imporre la post-verità con una moviola giudiziaria. Cito un passaggio: Dal 2002 a oggi il tifoso interista, ancora scioccato forse da quel maledetto 5 maggio, ha smesso di guardare il mondo con occhi sinceri e ha creato una realtà virtuale all'interno della quale ha accettato di diventare il prototipo del grillino perfetto, scaricando le proprie incapacità sul sistema corrotto, delegittimando gli arbitri per nascondere i propri difetti e cercando infine di cavalcare, con la complicità dei giornali della buona borghesia calcistica da tempo specializzati nell'alimentare su ogni fronte gli istinti anticasta, una penosa via giudiziaria per la risoluzione dei conflitti calcistici. Dunque, come la mettiamo, direttore? La mettiamo che purtroppo in questo momento i tifosi interisti sono un po' il prototipo dell'elettore italiano e temo anche spesso dell'elettore un po' populista, perché la divisione secondo me oggi è questa: tra chi crede che ci sia sempre una ragione esterna a quelle di gioco, a quelle del campo, per arrivare a una vittoria, e chi invece pensa che le partite si vincono semplicemente sul campo, e quindi vince chi ha giocatori migliori, vince chi fa più tiri in porta, vince chi ha un assetto di gioco più forte. Oggi invece purtroppo gli interisti, purtroppo non da oggi, da molti anni, pensano che c'è sempre un qualche complotto con la C o con la G, come volete voi, che possa giustificare l'inefficienza e la incapacità dell'Inter di fare più gol degli altri, di fare più punti degli altri e di vincere gli scudetti non grazie a un qualche combinato disposto giudiziario, ma semplicemente sul campo. Purtroppo oggi questa storia si ripete, perché dopo la partita con la Juventus si può dire quello che si vuole, si può anche criticare l'arbitro, ma non ci possono rompere le scatole tutti quanti per 5 giorni che c'è stato un complotto, che Chiellini ha fatto quello passaggio. Abbiamo giocato meno bene degli altri, abbiamo perso, punto, stop. E non capire questo, secondo me, è un modo per alimentare tutto il flusso anticasta, che poi ha anche un suo riverbero nel mondo extracalcistico. Maurizio Crosetti, cos'è da rispondere a Cerasa, che invoca un V-Day contro gli ultra frignoni e pronti a sventolare lo stadio fazzoletti sbianchi, sognando di vincere scudetti con Guido Rossi e la Moviola? Ma sono talmente d'accordo che allargo subito il discorso, allargherei il discorso, perché questa specie di sindrome da colpa altrui, da complotto esterno, da ce l'hanno tutti con me, è una specie di virus che contagia soprattutto l'educazione dei ragazzi. So che poi si diventa tromboni così, però prendi 5 a scuola, ma senz'altro sarà colpa del professore. Andiamo, cerchiamoci un avvocato per fare un ricorso, ci sarà un vizio di forma nella compilazione del registro. Vuoi che non riusciamo a trovare il modo perché il nostro ragazzo possa passare l'esame con un bel ricorso, eppure hai perso la partita, ma non è stato più bravo l'avversario, ma certamente c'è un disegno superiore. Non è solo l'interista che ragiona così, però questo no, abbiamo sentito prima anche Marotta, contagia tutti, sì, assolutamente, il rischio di dover sempre fare come Napalm, no? di Crozza, odio, clicco, ce l'hai con tutto il mondo perché ritieni che tutto il mondo sia colpevole dei tuoi limiti, invece di dire ho dei limiti e ci lavoro sopra per migliorarli, no, cerco delle scuse. E sì, così bisognerebbe dire anche a chi arriva dall'esterno, da lontano, tipo la nuova dirigenza cinese, che se ha già imparato così bene come funziona qui, il prossimo scudetto lo vincerà nel 2026 l'Inter. Cosa che non succede, una battuta, perché secondo me è la squadra più forte in prospettiva, e l'anno prossimo sarà da scudetto l'Inter. Sì, ha giocato alla pari con la Juve, non c'è nessun bisogno di Inter Channel, basta l'Inter. Alcuni, esagerando, hanno detto che sono le organizzazioni che vincono i titoli e non allenatori e giocatori. Questo è stato detto dall'altra parte dell'oceano. E a proposito di altri sport, secondo me non ci stanno neanche le battutine all'Alcan, anche se abituata all'Inter non sa perdere, pronunciata oggi. Ma l'umore della gente qual è? 800240024. Giuseppe, buongiorno. Sì, gente, io volevo proporre una riflessione. Al di là, diciamo, del discorso, ovviamente sono incazzatissimo, ma non è un problema questo. Facciamo un discorso costruttivo. Nelle grandi semifinali o nelle finali di Coppa del Mondo, tutti gli analisti dicono che se ci sono degli episodi dubbiosi è difficile che l'arbitro, no, governi la partita in modo tale che non sia veramente lo sport a vincere. Quindi nel dubbio sono conservatori, non danno un calcio di rigore che non è perfettamente evidente, una punizione, non mandano via un giocatore se non ha ammazzato l'avversario. Allora, io mi appello al dubbio, al beneficio del dubbio, e parlo per tutte le squadre o per tutti gli incontri in cui c'è una disparità di valori. Inter-Crotone, facciamo finta, no? Sì. Se in questo caso qui, se vale il discorso delle grandi semifinali o delle finali, se io fossi l'arbitro e ci sono due gol di distacco praticamente presunti possibili, poi li devi segnare, però c'è una differenza tale per cui ci sono due gol di scarto, facciamo finta, no? Nel dubbio io il calcio di rigore al Crotone glielo do. È una questione di misura. Sì. Perché non è giusto nemmeno giocare a calcio. Cioè, lei, ci sono due lei, squadre lei grosso modo mi sta parlando di sudditanza psicologica, facendo un estremo assunto di verità, quanto sta dicendo. Ma è la verità, Doc, vale per Lei sta parlando di sudditanza psicologica. Io giro il suo interrogativo proprio facendo il condensato. Io giro questo a Claudio Cerasa, Maurizio Crosetti, direttore. Ma io penso che sia una sudditanza calcistica più che altro. A me i ragionamenti che si fanno oggi sull'Inter che avrebbe perso a causa dell'arbitro e che di conseguenza non vincerebbe gli scudetti da molti anni a causa delle ingiuste performance degli arbitri sul campo da gioco, mi ricordano moltissimo le polemiche che ci sono in Italia quando si scarica sulla Merkel o sull'Europa brutta e cattiva le responsabilità delle cattive performance del nostro paese. Siamo diventati purtroppo i professionisti degli alibi e gli alibi vengono alimentati poi dalla stampa, dai talk, dai tifosi, dalle curve, perché è sempre facile dire che la colpa è di qualcun altro per non guardarsi allo specchio e riconoscere che da una parte quando si parla di politica se un paese va male non è colpa della Merkel ma perché non è capace di fare le riforme, dall'altra parte nel calcio se una squadra perde non è colpa di Rizzoli o dell'arbitro ma è perché semplicemente gli altri corrono di più e gli altri segnano di più e giocano meglio. Questo è secondo me il ragionamento basilare. Se si va fuori da questo perimetro si alimenta continuamente la cultura della delegittimazione che è uno dei gravi danni del nostro paese. Sì, io ho una certa forma di sudditanza psicologica anche inconsapevole credo perché per ogni arbitro che vuole fare carriera e magari più o meno tutti noi vogliamo fare carriera è importante arbitrare certe partite, non essere ripudiato in certe partite. Maurizio Crosetti. Sì, beh, quello non è sudditanza, quello è marchetta, è strategia, e succede, insomma. Spesso chi sbaglia a favore, chi deve scegliere a favore di chi sbagliare, sbaglia a favore del più forte, ma non si chiama sudditanza psicologica o complotto. Si chiama marchetta. Si chiama così va al mondo, infatti, infatti va molto male, infatti va molto male. Però non credo che ci sia un disegno superiore per cui ci si mette lì. È chiaro che ognuno guarda il proprio interesse, anche l'arbitro è a mente fredda, calda, tiepida. Io penso che qualcuno di questi signori possa anche pensare che forse se sta un pochino più attento a qualcuno, forse diciamo che la sua carriera non sarà più così danneggiata. Ecco, questo ci sta, è realismo. Succede. Io ringrazio entrambi, Claudio Cerasa, direttore del Foglio, e Maurizio Crosetti, nostro abituale interlocutore da Repubblica. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie signori, come direbbe Cruciani. Mi fermo qui, poi Pardo lo ripeschiamo. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. Tutti convocati. Sono Enrico Ruggeri, oggi raccontiamo al Falco e il Gabbiano la grande sfida tra Cesare Maestri e la montagna del Cerro Torre, un sogno diventato un'ossessione. Vi aspetto alle 15.30 al Falco e il Gabbiano su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta... Convocati. Dovremmo averlo recuperato sulla Sila o dove si trova per Luigi Pardo. Cioè... Sì, no, ci sono un po' di gallerie, in realtà vi aspettavo anche prima, tra l'altro non riuscivo neanche a sentirvi, sarà un momento drammatico. Non riuscivo a parlare neanche a sentirvi, capito? Disastro che capitano nella vita. Abbiamo Marco Amelia che dobbiamo salutare. Marco Amelia che si sta per andare ad allenare, giusto Marco? Sì, ciao, buon pomeriggio. Ciao. va a allenarti. Ciao. Grande. Vuoi tornare? Aspetti una chiamata. Sai, questi sono i momenti del mio mercato, perché essendo svincolato, se qualcuno cerca un portiere chiama me. Certo, è evidente. Quindi diciamo che qualche chiamata l'ho già ricevuta. Quindi dove vai? Giusto per non perdere tempo, devi andare a allenare. Dove vai? Non in Italia, perché in Italia è difficile trovare accordi con le varie società, soprattutto perché poi in Italia non mi prendono, quindi va bene tutto il resto d'Europa. Qualche accordo in questo momento, diciamo, anche strano, però io ho bisogno di giocare almeno fino a giugno, quindi bravissimo. Ma anche perché hai visto che è l'anno di Federer, di Tom Brady, è l'anno delle leggende che ritornano, no? Eh sì, quindi devo tornare anch'io. No, spero presto, veramente sto parlando, a giorni spero chiudere con una squadra, anche se magari può sembrare agli occhi tutti non un top, però invece è qualcosa di in buono. Europa? In Europa. Pardo? Settentrionale, meridionale, orientale. Faccio un indizio, sai tipo indovina chi? La barba? Nord, sud, ovest? Marco? Pronto? Hai sentito? Non gli ho messo paura. Mi sa che sto nelle stesse condizioni, che sto guidando. State guidando tutti e due. Io sto a Caranzaro, tu dove sei? No, io sto in zona Castelli, quindi non ci incrociamo. Senti, volevo una battuta sul Milan. Una vittoria come quella di ieri sera, presa nella disperazione, ti può cambiare in qualche modo la vita sportiva della stagione, no? Perché in 9 contro 11 la vittoria della sofferenza dopo un momento così buio, qualcosa può cambiare. Sì, cambia tanto, intanto perché ha portato un entusiasmo incredibile ai tifosi, all'ambiente, alla società, agli stessi giocatori, perché comunque è una vittoria per come si è messa la partita, che vale sì la classifica, ma veramente vale tanto a livello psicologico, mentale. Si veniva da 3 sconfitte, quindi vinci 1-0 sotto i 2 uomini con una giocata geniale di un giocatore che tutti dicevano all'inizio: ma chi ha preso il Milan? Io personalmente l'avevo già visto, lo conoscevo seguendo il campionato inglese. Quello è un bel giocatore, ragazzo giovane, ma è un gran bel giocatore. Sì, De Lofeo, gran bel giocatore. Però Marco, io ho detto molte volte in questa stagione che il Milan quasi no, la classifica non la deve guardare, deve difendere il suo patrimonio. No, non deve guardarla. Deve seminare, occhi bassi sul terreno, seminare, far giocare i suoi giovani, difenderli con lo spadone tratto. E non è questa la stagione in cui fare raccolto. È chiaro che rimanere ancora fuori dall'Europa sarebbe doloroso, eccetera, eccetera. L'unica cosa, io ho contestato prima a Crosetti la definizione di campione per De Lofeu, che insomma siamo all'inizio. No. E Crosetti ha accolto l'obiezione. Sì, anche perché questo è un ragazzo che ha veramente delle qualità importanti, che può diventare un campione. Su questo non ci piove. E sta dimostrando comunque con delle ottime giocate, soprattutto queste giocate in velocità che fa. No, lui è un giocatore tecnico, velocissimo. Poi è chiaro che soprattutto a quell'età le variabili sono tantissime, no? Che ti possono frenare o che invece ti possono accelerare la strada. La dimensione è una dimensione importante, però. Crosetti sì, si è allargato. Oggi non è un campione, ma appunto potrebbe diventare un giocatore di quella categoria lì, perché alcuni segni di talento abbagliante ci sono, soprattutto nella combinazione tecnica-velocità. Cioè, riuscire a fare delle cose tecnicamente valide è una velocità molto importante. Sì, no, ma poi per giudicare comunque il cammino del Milan, Marco, poi ti lascio andare ad allenare e aspetto di conoscere a questo punto a mezzo stampa o a mezzo velina, come si faceva una volta, la tua destinazione. No, ma la lettura del Milan è quella che ho dato, aggiungendo il fatto che ha perso per strada uno di recente e l'altro nel corso del mercato o per le sue peripezie. Due dei giocatori che a inizio stagione erano più importanti, come Niang e come Bonaventura. Questo bisogna dirlo. È caduto Marco Ameglia oggi con i telefoni, facciamo particolarmente fatica. Ma io ci sono, complicata. Te ci sei, resisti. E se lo chiamava l'anno scorso al Chelsea. Tornato? Eccolo. Sono tornato, sì. Sei tornato? No, per un'ultima battuta, ti dicevo. Sì. No, per un'ultima battuta, ti dicevo. Bisogna sottolineare quanto abbiamo detto prima, il copione della stagione del Milan, aggiungendo il fatto che per strada ha perso due giocatori che a inizio anno erano fondamentali per ragioni totalmente diverse, entrambi di recente, uno per infortunio, cioè Buonaventura, e l'altro per il mercato o per le sue peripezie fuori dal campo come era Niang. Questo va riconosciuto, sì. No? Sì, assolutamente, però ecco, questo fa parte un po' del percorso che dicevi del Milan, che è quello di seminare, e quindi tutto questo può portare solamente a dare spazio anche a altri giocatori. Niente, ciao, gnafamo, Fabio. La giornata è complicata, stai con me almeno tu. Io ringrazio comunque Marco Ameglia, che torneremo a chiamare come portiere di una qualche squadra europea, non si è capito quale, né di dove, né se a est, ovest, sud o nord. Comunque, però... comunque quella di ieri è una partita per il Milan potenzialmente risolta. Poi adesso c'è Lazio-Milan, io penso che la Lazio sia favorita al lunedì, tanto facciamo anticipo di schedina. Però vincere il 9 contro 11 è veramente una di quelle cose che, un po' come era successo col Sassuolo nella prima parte della stagione, può essere veramente un momento sliding door. Fermo restando che la dimensione del Milan è quella, l'abbiamo sempre detto, non è che ieri sera sia cambiata. No, non è che ieri sera sia diventato squadra della Champions. No, nella 9 contro 11 abbiamo visto alcune delle fragilità, non voglio dire delle inesperienze, perché poi alla fine invece in realtà spesso i giocatori che fanno dei piccoli casini sono giocatori esperti, però insomma del fatto che non c'è tutta questa qualità diffusa, no, nella squadra, e quindi poi si commettono degli errori, però comunque diciamo che c'era una ruota psicologica che ultimamente stava girando malissimo, anche con un pizzico di sfortuna, che magari ieri sera il Milan è riuscita a far girare nuovamente dalla parte giusta, quella del girone d'andata. Fermo restando che per completare il discorso, il Bologna è vagamente improponibile in questo momento, che ne prende 7 in casa dal Napoli e poi perde contro. Sì, anche se le palle gol ce le ha avute, Sì, le palle gol ce le ha avute, tutto qua, però non mi è sembrato una squadra proprio sul pezzo, a partire da destro, che assolutamente, mi piace moltissimo, sta giocando l'ennesima stagione deludente. C'è anche un problema che non voglio dire riguardo Bologna soltanto, che un campionato così, l'abbiamo detto già nei giorni scorsi, con 3 squadre che sono praticamente già retrocesse, con poche squadre, cioè sono troppe squadre che hanno scarsi interesse. Poi è ovvio che quando giochi contro il Napoli o contro il Milan, soprattutto in casa, le motivazioni ce l'hai sempre, perché è comunque una grande serata, dall'ala piena e tutto il resto. Sì, però, virtuali, più virtuali che reali. Non è esattamente il massimo. Esatto. Lorenzo, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Dica. Devo intervenire in merito al discorso degli interisti incazzati. Io sono interista e sono diciamo in parte incazzato, perché probabilmente, come ho sentito da chi mi ha preceduto, non è giusto giustificarsi dietro l'errore arbitrale. Però una domanda mi viene da fare: ma come mai poi però gli errori arbitrali cadono sempre dalla stessa parte? Perché non mai di un errore arbitrale a favore della Juventus negli incontri o negli scontri diretti contro quelle che sono le squadre con cui partecipa e gareggia in Italia, perché la storia arriva da lontano, cioè nel senso non è fare le vittime, non vogliamo fare le vittime, ripeto, poi la Juve sul campo probabilmente ha fatto più dell'Inter, ha meritato di vincere, questo però sta di fatto che ci sono degli episodi ed episodi anche eclatanti a favore dell'Inter, che insomma, ripeto, poi Marotta che vada a fare il brillante, no, però Marotta, le cose poi Marotta, loro. Marotta ha fatto il brillante da una parte e ed è stato molto meno brillante dall'altra, quando un anno fa aveva detto più o meno le cose contrarie dopo la sconfitta con il Bayern di Monaco. Succedono anche certe volte alla Juventus le serate storte dal punto di vista arbitrale in questa stagione. Ricordiamo ad esempio quel fallo da rigore su Marchisio a San Siro che poteva starci, però non venitemi a parlare di nuovo cultura sportiva, di tutte queste belle cose. Ci vediamo per il traffico, torniamo subito. Tutti convocati. avvocati. Pierluigi. Sì. Sai che Marco Amelia stoicamente è tornato. Grandissimo. Adesso dobbiamo farci devi convincere a dirci almeno il paese, insomma. In cui andrà a giocare. Sì, no, ma anche il quadrante, dai, il quadrante geografico. Il mondo, un paese nel mondo. No, la cosa ma al di là deve essere questo. Io avevo fatto un ragionamento importante prima, ma sì, penso di aver parlato da solo per almeno 2-3 minuti. Ripeti. No, si parlava del Milan, del fatto che ha perso i giocatori, però ecco, fa parte del percorso, perché poi quest'anno deve trovare un po' una stabilità, soprattutto perché ci sono varie situazioni societarie, e poi perché tanti giocatori, dimostrando che soprattutto hanno giocato meno, dimostrando il loro valore, poi saranno utili a quello che sarà il Milan di domani, che dovrà tornare a lottare per le prime posizioni. Quindi fa tutto parte comunque del gioco di crescita, e ci può stare, perché poi gli infortuni fanno parte del gioco. No, questo è chiaro. Marco, un'ultima cosa, molti tuoi ex compagni del Chelsea, te li aspettavi così, cambiando allenatore con Conte? Beh, sì, perché intanto prima di lasciare il Chelsea mi sono fatto comunque una chiacchierata col mister e mi è sembrato molto carico, ma soprattutto sapevo che i ragazzi erano carichi, perché dopo un'annata come quella dell'anno scorso c'era la motivazione subito di ribaltare quello che era stata una stagione negativa e di dimostrare a tutti di essere forti. Quindi si è creato questo mix tra un allenatore che non lascia niente al caso e giocatori motivati, fortissimi, secondo me quella era anche l'anno scorso la squadra più forte e quest'anno è ancora di più, che nonostante anche un inizio un po' di non proprio ottimale, però ci sta quando ci sono questi cambiamenti, però ecco, sta dimostrando di essere una top squadra. E questo lo si vede in ogni gara, in ogni partita. Poi ecco, il mister trasmette quel qualcosa in più che forse al calcio inglese a volte manca. Sì, perché un allenatore che si butti in mezzo ai tifosi non lo vedi tutti i giorni. All'inizio ed è solo esemplificativo. Non era neanche ben visto un atteggiamento del genere da parte di un allenatore, allenatori un po' più tranquilli, impostati. Invece Antonio è così, beh, tranquillo, impostato riguardo a Mourinho, magari non sono le parole più corrette, però insomma ecco, l'Inghilterra, il mister invece ha un'impostazione in panchina molto diversa, perché è la regola, cioè, infatti adesso hanno fatto il decreto Conte, no? Per cui è ammesso, quello che fa Antonio va bene a tutti, vabbè, ma sta vincendo, sta facendo delle ottime cose e soprattutto sta trasmettendo una carica importante ad un ambiente che ha voglia di vincere ancora, e sono convinto che alla fine vincerà, perché comunque sono tanti punti. Sì, ma sono troppi punti di distacco, poi le altre si fanno del male a vicenda e quindi vedo veramente difficile un crollo del Chelsea, anche quasi impossibile, dai, al di là della scaramanzia. Pardo, stavi dicendo qualcosa? No, stavo dicendo che secondo me il mix vincente di Conte è quello che unisce uno spirito in realtà molto da calcio inglese, perché a parte l'abbraccio dell'altro giorno, cioè Conte è veramente un martello, il calcio che sta giocando il Chelsea è un calcio di enorme intensità, però alla tattica, alla visione lucida che hanno gli allenatori italiani. Quindi secondo me fa mix è vincente e non vedo proprio alternative, insomma. Poi dei meriti clamorosi, secondo me in più c'è anche il fatto che non esiste secondo me un'alternativa credibile. Il Manchester City e il Manchester United secondo me sono due squadre più forti oltre al Chelsea, certo, sono le grandi, certo, delusioni. Ma poi ragioneremo sul fatto se è stata più fallimentare la stagione di Guardiola, la delusione maggiore è stato Guardiola o è stato Mourinho o è stato magari Klopp, un giorno ci ragioneremo sopra. Marco, grazie Marco, ti lasciamo all'allenamento. Prego, grazie a Marco, Amelia, un saluto, ciao Pierluigi. Che ciao, qui non ciao. Siamo riusciti a strappare nemmeno la parte d'Europa in cui andrà a giocare. Vabbè, ci arrendiamo. No, prima di Michele da Padova e Fabrizio da Torino, volevo farti sentire una roba molto divertente. E adesso fosse Paletta, lo sapevo, figurati, figurati. E anche oggi, uomo in meno, e adesso Zemaglia anche la punizione per portarsi in vantaggio. Lo sapevo che sulla quella provocazione di Mbaye l'avremmo pagata, lo sapevo. Così Donadoni è contento, abbiamo anche oggi il nostro espulso quotidiano, Donadoni ha caricato bene l'arbitro, complimenti. È un fallo normale, non da giallo! Doveri, non bisogna applicare il protocollo Donadoni ad ogni azione! Basta prenderci in giro! Basta prenderci in giro, manda via anche Abate, dai arbitro! Manda via anche Abate, che c'è lo bello da raggiungere a Verona nel 90, dai! Dai! Sono al fianco dei miei ragazzi, sempre! Dai, manda fuori anche Abate, dai! Fino in fondo, Doveri! Delo Feu, salta l'uomo, Delo, punta Delo, punta Delo, punta Delo, sì, sì, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan, il cavallino croato, grandi Delo e Pasalic, mi avete smentito in faccia, grazie, San Juan, anime, anime, guardali Roberto, guardali, tu che hai perso la fede Roberto, guardali, sì, sì, sì, lui ha visto la luce, sì, sì, Gesù Cristo ha compiuto il miracolo, ha visto la luce, tutta la vita questa partita, non mi interessa più niente, dopo questo gol è finito il campionato, andate avanti voi, perché questo è un gol di vita, è un gol di anima, è un gol di anima, è un gol di giustizia. Non dirmi che non ti ha fatto impazzire Mauro Assuma. No, ho capito il 50%, ma che cos'è che urlava tipo one to one, se ecco per la cosa? Eh? Che cos'è che urlava al momento del gol? E urlava San Juan, San Juan, San Juan, ah, San Juan, la Fatlingan, dicono, sì, vabbè, un cult, una telecronaca calta, direi. Ho scoperto che esiste anche non solo il protocollo Juventus, ma anche il protocollo Donadoni, per non smentirci mai, per Luigi. Vabbè, comunque con questa ti saluto, ti lascio viaggiare, tranquillo. Io aspetto GR, poi mi smazzo un po' di ascoltatori, poi mi raggiunge Marco Bellinazzo su questione closing, 1 marzo la prima convocazione, 3 marzo seconda convocazione dell'assemblea. Questione closing del Milan, questione stadio della Roma sempre più intricata e incasinata. Questione Veltroni, che ieri c'è stato da noi, che ha detto: ma io non ne sapevo niente, forse serve un altro personaggio. Guarda caso, Veltroni, pochi istanti dopo, ha fatto retromarcia. E ci vediamo per il GR. Tutti convocati. Tutti convocati. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Iperceramica, prezzi super, qualità iper. Convocati. Ragazzi, non abbiamo mica finito qui, perché è arrivato dal piano di sopra sulle 24 ore l'autorità Marco Bellinazzo. Eccomi qua, buon pomeriggio. Con cui abbiamo diversi temi di largo interesse da trattare, e poi c'è la carica degli ascoltatori. Saluto subito Luigi da Milano. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, ascoltatori. Aspetti che vediamo qual è il punto di vista di Bellinazzo sulla questione Juventus-Inter. No, io non parlo di questa questione. No, e adesso tu non parli, ha appena parlato il Can dicendo beh, che... appunto, cioè precedentissimo... Niente, anche se non, è strano che l'Inter non sia abituata a perdere, non sa perdere anche se è abituata, ha detto il Can, poteva anche risparmiarsi questa... prima abbiamo parlato con Claudio Cerasa, interista e direttore del Foglio, che oggi ha scritto come insomma gli interisti dovrebbero anche affrancarsi da un certo tipo di comportamento. Beh, io credo che sia oggettivamente tutta questa passione positiva, e voglio leggere anche il messaggio di John Elkann in termini, come dire, ironici di sfottò, ecco, che finché rimaniamo su questa soglia, insomma, va bene, poi rendiamo più caldo ancora il derby d'Italia. Sto con Crosetti, cui quando si parla di cultura sportiva lui viene la diarrea, ha detto prima. Luigi, dica. Sì, nemmeno io volevo parlare, per la verità, di Inter-Juve, però volevo invece sottolineare una cosa positiva, secondo me, sì, che prova che quando le regole sono chiare tutti ne guadagnano. E in particolare non ci sono più, non vediamo più i balletti che c'era una volta sulla distanza della punizione, della barriera della punizione, perché è stata introdotta una regola con la bella striscia, con la bomboletta, sì, tutti quanti stanno fermi, sembra un Fissimo. Miglioramento. D'accordissimo. Un altro miglioramento si potrebbe fare, che ne guadagnerebbero tutti, è quello che soltanto il capitano può rivolgersi alla terna arbitrale, perché vedere questi capannelli di juventini, di interisti, di milanisti addosso all'arbitro, mi sembra è argomento veramente all'ordine del giorno in chiave regolamentare, anche questo eppure su questo sono d'accordo con lei. C'è qualcosa su cui siamo in disaccordo? Una cosa su cui siamo probabilmente in disaccordo è questo, cioè che secondo me c'è la prova provata che gli arbitri non sono imparziali, ovvero chi ci dà questa prova provata sono le società stesse, perché nel momento in cui le società si possono permettere di ricusare un arbitro, significa che le società pensano che quell'arbitro non sia imparziale. E allora hanno ragione i tifosi a pensare male. Perché se i primi a pensare male sono le prime a pensare male sono le società stesse, vuol dire che o gli arbitri davvero sono corrotti, corruttibili, tifosi, chi più ne ha più ne metta, oppure c'è qualcosa che non torna. Cioè, secondo me prima avete dato per scontato una cosa che mi fa, come direbbe il buon Conte, agghiacciare il sangue. Cioè che gli arbitri, le carriere degli arbitri possono essere influenzate dalle società. Ed è una cosa, secondo me, che non sta né in cielo né in terra. Perché, no, ma io parlavo in senso lato di sudditanza psicologica. Parlavo in senso lato di una sudditanza psicologica che, secondo me, vuoi anche a livello inconscio, può esistere nei confronti dei grandi club. Quanto alla ricusazione, insomma, abbiamo dei designatori che fanno il loro mestiere e che valutano l'opportunità di certi incroci. Sì, io credo che possa valere nel momento in cui, diciamo, accadono determinati episodi e si può creare un'oggettiva, come dire, antipatia personale magari tra un arbitro e una certa squadra, una certa dirigenza, insomma, un certo giocatore, avviene tra gli uomini, insomma, nelle faccende del mondo. Ecco, pensare che invece le società possano opporsi a un arbitro perché ideologicamente o peggio ancora schierato a favore di un'altra squadra, insomma, ecco, questo mi rifiuto di crederlo. Credo invece che si possano determinare effettivamente, voi anche per l'esperienza, per i precedenti, delle situazioni di conflitto, no? Pensiamo a un allenatore che viene cacciato sistematicamente da un arbitro perché il suo modo di fare giocato troppo aggressivo. Ecco, in questi casi io credo che possa essere anche legittimo, proprio per una questione di trasparenza e di mi pare che quando il tuo Napoli venga arbitrato da Tagliavento tu non sia particolarmente felice. Per me è indifferente, insomma, però leggo tanto che tanti tifosi che quando c'è una designazione sgradita cominciano appunto dal momento in cui avviene a indicare quello che potrà essere l'esito nefasto di quell'arbitraggio. Però io, ecco, insomma, andrei un po' oltre queste faccende. Marco, ci siamo per quanto riguarda il Milan? Beh, abbiamo detto tante volte, stavolta ci dovremmo essere, quindi usiamo ancora il condizionale, però il CDA ha fissato l'assemblea, prima convocazione, ormai lo sanno anche De Pietre, il 1 marzo, la seconda il 3 marzo, che era il termine ultimo entro il quale dovevano arrivare gli ultimi spiccioli per... Oh, spiccioli, la faccia di 750? Beh, però parliamo di 320 milioni, poi c'è l'accollo di 220 milioni di debiti che verrà fatto, credo, con un'operazione con Goldman Sachs. ultimamente sulle pagine di Sport e Business ci siamo occupati, non so, della NFL, dove lì si parla tanto, tanto di miliardi, e quindi mi sembrano spiccioli, insomma. Sì, sì, sì. Raggiungiamo delle misure cui è come pensare alla distanza delle stelle. Esattamente, insomma, esattamente. Cosa. E mi chiedo come mai, se lo chiedono in realtà tanti dirigenti del calcio italiano ed europeo, cioè perché uno sport che in fondo ha un bacino di interesse relativamente limitato, no? A parte l'evento globale del Super Bowl, riesca a fare certe cifre, parliamo di 13 miliardi, obiettivo 2027 a 25 miliardi di fatturato, mentre il calcio, che è uno sport oggettivamente più diffuso e planetario, abbia ricavi enormemente inferiori. Beh, insomma, questo è un tema su cui chi dirige le politiche sportive italiane, europee, internazionali, evidentemente perché è ben amministrato, no? Beh, sì, mi sembra. Tu cosa dici? È la prima cosa che mi viene da pensare, sembra... perché viene, sì, viene amministrato un caso non può essere. Viene amministrato con lungimiranza. A proposito di amministrazione, c'è quella poltrona da cui tutti fanno retromarcia. Ieri ultimo è stato Veltroni. Dopo, allora, Veltroni, la situazione è questa, la conoscete. L'altro giorno Repubblica ha detto: ma Veltroni potrebbe essere un candidato plausibile per la poltrona della Lega Calcio, su cui ormai da anni sta seduto il dimissionario Beretta. Lo stesso Veltroni ha detto: ci sto pensando. Un conto rapido portava a 13 sì ipotetici, cioè quelli delle escluse le grandi squadre, tutte le altre. Sì. Ieri abbiamo parlato da questi microfoni con Ormano Caro e ha detto: ma io sinceramente non ne so niente, ma non mi sembra la figura più adatta. Guarda, io credo che innanzitutto c'è un problema, e lo hanno detto tante volte le squadre, almeno a parole, di riforma degli statuti, delle regole che governano la nostra Lega, che deve essere trasformata, detto in sintesi, da un condominio a una società. E qui, sì. qui mi fermo. Dopodiché, all'interno di queste riforme potrebbe ben esserci il fatto di avere un presidente, anche una figura come Veltroni, quindi una figura che abbia un suo peso specifico, a patto però che abbia sotto di lui due amministratori delegati, uno per l'area sportiva e l'altro, certo, soprattutto per l'area commerciale, manageriale, di sviluppo del prodotto. Con questa fisionomia si potrebbe anche ragionare. Chi la sa lunga, e tu la sai lunga, dice che il problema vero è quello dello statuto, che è in divenire, che le grandi squadre stanno scrivendo, e senza il quale, proprio come Beretta, il presidente della Lega Calcio non può muovere nemmeno una matita. Se prendessimo Don Garber, che è il commissioner, uso questo termine mutuandolo dagli Stati Uniti, ma comunque l'amministratore delegato della Premier League, che è lì da oltre 20 anni, ha portato la Premier League verso 7 miliardi di fatturato, e lo mettessimo qua, non potrebbe fare praticamente nulla. Esatto, e questo statuto dovrebbe essere pronto quasi, no? Si dice? Guarda, io non ci credo. Non ci credi? Beh, trovare 16-17 società d'accordo sul dare tanto potere a un uomo che non sia un presidente di una di queste squadre la vedo molto difficile. A parole sono tutti d'accordo, nei fatti voglio vedere, insomma, ho una certa perplessità sul fatto che si possa rapidamente avvenire a una riforma efficace. Ecco, se poi mi parli di ritocchi che cambiano per non cambiare, beh, lì è un altro paio di maniche. Io dico delle regole vere che tutti conoscono, su come deve essere gestita la Lega, perché, ripeto, non bisogna inventarsi nessuna genialata, basta emulare le esperienze migliori che ci sono oltre Manica, oltreoceano. Su questo tipo di interventi sono un po' più scettico, però magari, insomma, sono qui per essere sorpreso da un lampo di illuminazione. Michele, buongiorno. Fulminato sulla via di Damasco, non Michele, lei, noi tutti quanti. Dica. Beh, Michele. Michele? Pronto? Sì, pronto, buongiorno, mi sentite? Sì, sì, salve, sì. Buongiorno. Dunque, io vi ringrazio, non vorrei tediare ulteriormente sulla questione dell'Inter, ma c'era una cosa che non, diciamo, una sorta di non risolto, che mi aveva colpito prima quando avevo dato il collegamento col direttore del Foglio Cerasa, che ho ascoltato con interesse, argomentazione appunto che lui esponeva, invitava sostanzialmente gli interisti, non interisti, io sono un tifoso nerazzurro, sì, non solo, ad abbandonare la cultura dell'alibi, insomma, convincendosi che se non si riesce a vincere non è per responsabilità altrui, ma per le proprie incapacità, perché gli altri sono più bravi. E questo mi sembrava appunto ben argomentato, convincente, ma supponevo che fosse una teoria diciamo inconciliabile con quella invece molto più rozza, se mi permettete, espressa dal direttore della Juve Marotta, che voi stessi avete criticato. Invece alla fine sostanzialmente diciamo, prendendo per buona la teoria di Cerasa, ci si mette una pietra sopra e si dice agli interisti: lasciate perdere gli arbitri e gli alibi e cercate di giocare meglio e vincete così. Però allora, a questo punto ha ragione Marotta, cioè, nel senso, facciamo i piangina perché ci manca manca la cultura sportiva, la cultura cioè della sconfitta, quindi mi sembrano due cose che non stanno insieme, pur essendo l'una più intelligente, abbiamo commentata dell'altra. No, ma sul intervento ha pieno diritto di cittadinanza, ma non sono la stessa cosa. Cioè, torno a ripetere, qualcuno dall'altra parte dell'oceano tempo fa, Jerry Krause, storico direttore generale dei Bulls, che dopo Michael Jordan non ha vinto più niente, però ha detto: a vincere non sono i giocatori e gli allenatori, ma le organizzazioni. Ora, questo non è vero, però può avere un fondo di verità, soprattutto se parliamo del calcio italiano. Quindi io credo che Zhang possa dare all'Inter gli strumenti organizzativi per tornare competitiva. I prossimi anni saranno un duello Juventus-Inter, salvo diciamo sorprese sportive, ma nel medio lungo termine insomma sono queste le due squadre che domineranno in Italia per possibilità economiche, perché stanno implementando un'organizzazione che permetterà ai giocatori che si possono inserire in organico grazie alle risorse economiche di rendere al meglio. E l'Inter, e la partita con la Juve lo ha dimostrato, è già sulla buona strada e lo sarà ancora di più prossimamente, insomma. Quindi salutata l'era della presidenza e la maggioranza Toir, sì, si sono aperti altri orizzonti. L'incasinatissimo dopo Moratti. Illuminami di mezzo sullo stadio di Roma. Famo sto stadio. Io sono stato da sempre insomma favorevole. Sono favorevole alla costruzione di nuovi impianti. E lo siamo tutti. Impianti. Possiamo cercare dove vogliamo. Non c'è nessuno che non lo sia. Detto questo, il progetto. Io non sono un urbanista, quindi diciamo, se no mi candiderei al posto di assessore a Roma. Ma quindi non possiamo sapere. Non possiamo dire noi, no? Se lì quello stadio e quella struttura con il business park va bene o non va bene. Lo ha certificato il comune al dicembre 2014, riconoscendo l'interesse pubblico dell'area. Ora, c'è un principio di continuità che deve valere, per cui la Roma potrebbe tranquillamente subire il no e andare in giudizio e vincerebbe le cause, ottenendo importanti risarcimenti dal punto di vista strettamente economico. Chiaramente non farebbe lo stadio fino al cambio di maggioranza, ma la Roma è disposta, pur di fare lo stadio, ad accettare dei cambiamenti al progetto. Questo progetto non ha visto la legge sugli stadi dei finanziamenti pubblici, per cui è naturale che accanto allo stadio la legge consente al comune di riconoscere ai privati che lo fanno una serie di compensazioni economiche per rendere in equilibrio, no, il tutto. La Roma può accettare determinate decurtazioni sulla cubatura, modifiche, a patto che ovviamente ritenga comunque conveniente tutta l'operazione. Detto questo, la conferenza dei servizi doveva semplicemente mettere un visto e legittimare questa cosa. Si è complicata la faccenda. Ora, dal punto di vista giuridico, o la conferenza dei servizi e poi il comune ci dicono che diranno alla Roma che lì in quella zona le costruzioni non si possono fare perché è una palude e quindi sostanzialmente non si può costruire, oppure potranno trovare delle correzioni da fare e la Roma potrà o meno accettare se farle o meno, e si dovrebbe andare verso una conclusione positiva, perché altrimenti la conseguenza, ripeto, è quella di andare a fare delle cause in giudizio. Detto questo, su come è congegnata l'operazione, io non entro, ripeto, nella parte urbanistica perché non è di mia competenza, piuttosto però io ho sollevato da sempre delle perplessità su come è configurata giuridicamente l'operazione, perché dal punto di vista giuridico la società che poi avrebbe in pancia lo stadio non è della Roma, della S Roma, non sta sotto la S Roma ma sta sopra, ed è una società di Pallotta e Parnasi, il che significa che la Roma poi dovrà affittare lo stadio da questa società, che per esempio si porrà un problema per capire gli extra ricavi, quelli che poi sono importanti in queste operazioni, come li vai a imputare alla Roma. E quindi diciamo il mio suggerimento era per la dirigenza romana, diciamo, per venire incontro ancora di più alle autorità del Campidoglio e dimostrare la propria buona volontà, è quella magari di fare una modifica anche al progetto giuridico e togliere ogni dubbio sul fatto che questo è lo stadio della Roma e non lo stadio di Pallotta e Parnasi. Perché questo effettivamente è stato giustificato come un'esigenza finanziaria per costruire l'operazione, però dico anche che per esempio i debiti, i costi che derivano dalla costruzione dello stadio sono considerati virtuosi in Europa nell'ottica del fair play finanziario, quindi non peserebbero troppo sul bilancio della società. non è semplice, mi rendo conto, in questa faccenda nulla è semplice, però dobbiamo guardare l'obiettivo qual è. Si deve fare lo stadio, perché altrimenti la Roma non potrà mai competere ad altissimi livelli, perché la Roma incassa 20-25 milioni dall'Olimpico, a parte l'ipotesi insomma in cui vada in Champions, in cui c'è qualche partita in più e più redditizia. Si deve confrontare con la Juve che ne fa 40-45, con le squadre europee che ne fanno dai 70 in su. Capirete che così non si va da nessuna parte. Certo. Torniamo al discorso delle organizzazioni più che degli arbitri, anche se sembrano due mondi divisi, non lo sono. Fabrizio, buongiorno. Pronto? Dica. Sì, buongiorno. Guarda, io non sono interista, ma sono peggio, sono granata. Ancora peggio. Ancora peggio. A proposito dell'assenza della cultura sportiva, non è assenza, è presenza il problema, presenza della squadra di Vinovo Venaria, la squadra argentina. No, ho detto questa battuta. Il problema della cultura sportiva, dovrebbero affrontarla prima di tutto la Juve, quando scrive sulla maglia: l'importante non è vincere, l'importante non è vincere, l'unica cosa che conta. Vincere non è importante, l'unica cosa che conta, la frase esatta. Questa è una frase di antica data. Di Marisa, di Boniperti. Di Boniperti, è di antica data, però non è bella, perché dà l'idea di l'unica cosa che conta è vincere, qualunque mezzo è valido. Sì. Come infatti gli stessi tipo A me non piace nemmeno la frase attribuita a De Coubertin: l'importante non è vincere ma partecipare, attribuita a De Coubertin, poi sappiamo che non è sua, eccetera eccetera, però mi piace poco pure quella. Nello sport professionistico, inutile nascondersi, vincere è fondamentale, per non solo per la soddisfazione ma per mille altri discorsi. Marco, fammi una battuta sulla Rede, scappo e voglio fare degli auguri speciali insieme a Pier Augusto Stagi. Sarò velocissimo, anche perché ne abbiamo discusso ieri qui anche a Focus Economia, quindi non ripetiamo cose già dette e soprattutto evitiamo di beccarci insulti. Tra me e Barisoni abbiamo beccati tanti ieri. Allora, io non gioco a golf, non ho nulla, come dire, non ho un conflitto di interessi. Questi 97 milioni servono affinché si possano fare determinate operazioni per poter ospitare la Ryder da qui al 2027, soprattutto per esempio per aumentare il montepremi dell'Open d'Italia, che da 1,5 deve essere portato a 7 milioni. E perché va portato a 7 milioni? Perché così entra nel circuito dei grandi tornei, per fare un esempio il tennis, Wimbledon e Roland Garros, così arriverà Tiger Woods, arriveranno tanti sponsor, e questi sono soldi che poi effettivamente la nostra federazione golf incasserà, così come 42 milioni che dovrebbe dare Infront per la copertura televisiva di questi eventi da qui al 2027, per cui molto probabilmente quei 97 milioni non verranno toccati, servono come garanzia di base per poter avviare tutte queste procedure. Sull'importanza del torneo per noi italiani, insomma, ci fa un po' ridere, perché abbiamo una certa idea del golf, sa di fatto che ci sono 60 milioni e più di praticanti di golf, che l'evento prevede negli altri altre edizioni circa 300.000 spettatori che verranno a seguirlo, che in intere regioni della Spagna, del Portogallo e la Turchia sono rinate con il turismo legato al golf. Sì. Di conseguenza, o vogliamo sfruttare questo traino, visto che si parla tanto di turismo in questo paese, oppure ce ne freghiamo, facciamo una brutta figura alziamo le mani. Non le Olimpiadi, non i mondiali, non gli europei, no, nemmeno la Ryder Cup. Stai con me, perché insieme a Pier Augusto Stagi facciamo gli auguri, ovviamente per interposta persona. Ciao Pier Augusto. Buon pomeriggio, ciao Carlo. 85 anni per un grande dello sport e uno dei padri anche dell'imprenditoria italiana, si chiama Ernesto Colnago. Sì, è stato festeggiato oggi qua a Milano con tantissime personalità del ciclismo e appunto anche dell'industria, a cominciare dall'ex presidente, anzi dagli ex presidenti di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo e Giorgio Squinzi, che tra l'altro è stato partner assoluto, amico, confidente di Ernesto Colnago per 9 anni, che hanno segnato veramente la storia del ciclismo con la Mapei, una delle squadre più forti del mondo, anche per 8 anni la più forte squadra del mondo negli anni 90, con i vari Johan Musso, Franco Ballerini, Andrea Tassi, Paolo Bettini, Michele Bartoli, cioè tantissimi corridori. È stata veramente una corazzata. Io volevo salutare Pier Augusto, ero lì stamattina, scusami, a un certo punto mi sono trovato tra Moser, Saronni e Gimondi, insomma, lui li ha visti, e quindi capisco l'emozione in cui sta raccontando questo evento. Sì, oggi c'era proprio, era una cattedrale, e da un lato proprio le sensazioni che ho provato è stata quella di maestosità, ma anche di grande familiarità. La cosa bella, il segreto di Ernesto Colnago è che lui è una persona che pensa in grande, fa le cose grandi, ma lo fa con grande semplicità e con quella visione di amicizia che non ha mai perso, e quindi anche di condivisione. Oggi si è respirato chiaramente perché c'è stata questa oretta magistralmente officiata da Marino Bartoletti, che come lui ha detto e ha ricordato, Ernesto Colnago è stato l'unico che è riuscito a fargli fare il percorso inverso, gli ha fatto fare Sanremo-Milano. Noi tutti sappiamo la competenza di Marino, non solo nello sport assoluta, ciclistica non ne parliamo, ma anche e soprattutto musicale. Sì. Ernesto Colnago è riuscito anche a muovere questa corda. Ma mi sembra giusto, mi no? Adesso appena sento Marino glielo dico, mancherebbe altro, non avessi fatto quel percorso, sarei venuto a prenderti io col bastone. Per Ernesto Colnago questo ed altro, ma Marino lo sa benissimo. Sto solo scherzando. Pier, ci sentiamo presto, anche perché la stagione sta per cominciare, anche sarebbero mille storie da raccontare su Ernesto Colnago, ad esempio la sua amicizia con Ferrari, la prima bici di carbonio. Ma tu usi per le macchine da corsa quel materiale lì, il carbonio, ma perché non posso usarlo io per le biciclette? Così sono nate le biciclette di carbonio. Io ho strappato la promessa e me ne parlerà per Sport e Business prossimamente. Davvero? Lasciamo tutti col fiato in sospeso. Tante storie. Ciao Marco, grazie. Grazie a Marco Bellinazzo, grazie a Giorgio Ruga, il nostro dottore, Gianmarco Ferronati in regia, Edoardo Lavezzano in redazione. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao.